Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Negli ultimi mesi ho pensato molte volte al momento in cui avrei iniziato a scrivere queste righe. Mi immaginavo seduto davanti allo schermo, a tarda ora, esausto, dopo una sigaretta celebrativa fumata ascoltando una canzone che mi piace. E così in effetti è stato. Mi chiamo Lorenzo, ho 26 anni, è un po' difficile dire dove vivo, ma diciamo che da metà settembre vado a vivere a Bruxelles almeno per 3 mesi e faccio un sacco di cose che hanno a che fare con la progettazione europea, i fondi europei, i soldi che arrivano dall'Europa fondamentalmente. Non ho capito esattamente che cosa va a fare Lorenzo a Bruxelles, ma glielo chiedo più tardi. Sono le 16:07, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e voi siete qui. Voi siete qui è il nome di questo programma in cui ogni giorno si racconta una storia. Basta che la mandiate voi, basta che la scriviate. Una pagina che racconti un episodio della vostra vita e che dica qualcosa di voi. E poi la mandate a voi siete qui, @radio24.it. Lo dico perché la puntata di oggi è forse la prima puntata in cui la persona che ha inviato il racconto di oggi, la storia di oggi, non voleva far parte di questa puntata. O meglio, il racconto che ha mandato non era un racconto. O forse per lui non era un racconto, ma invece lo è decisamente, perché dice moltissime cose di lui, dice moltissime cose delle persone che hanno la sua età. E a questo proposito, il racconto di oggi parla di un'età che è quella tra i 25 e i 30 anni. Vabbè, facciamo sì, a metà tra i 20 e i 30. Parla di quelle persone che hanno quell'età, che fanno l'università e che si affacciano su quello che i grandi chiamano il mondo del lavoro. Io credo che questa puntata sia molto interessante anche e soprattutto per le persone che sono più grandi, per le persone che hanno dai 50 in su, perché è abbastanza raro avere un punto di vista così dentro alle cose delle persone che hanno quest'età, che sono di questa generazione e lo raccontano come ha fatto Lorenzo nella sua storia. La puntata di oggi è una serie di ringraziamenti, cioè la sua storia è la storia di un lavoro che finisce, nella fattispecie una tesi di laurea, e racconta a che punto si trovava nel momento in cui finiva quella tesi e ringraziava tutte le persone che lo avevano aiutato lì e non solo. Ecco perché la puntata di oggi è dedicata ai ringraziamenti. Quindi se avete qualche persona che avete in mente di ringraziare, magari non l'avete fatto o non l'avete fatto apertamente, una persona ma anche una cosa o un luogo o un gruppo musicale o un film, oggi è la puntata per farlo e farlo direttamente al telefono in diretta. A voi siete qui, 800 24 00 24, se volete chiamare e farlo in diretta, oppure 349 238 6666. Vi faccio alcuni esempi di persone che hanno scritto sul profilo Facebook del programma, che è Radio 24. Voi siete qui, Radio 24. Lorenzo: grazie alla mia professoressa di italiano delle medie che mi ha aperto la mente a un pensiero alternativo. Anna: ringrazio gli Smiths per aver... Smith o Smith? Cioè, S finale, Tiziano? Ah, gli Smiths. Per avermi dato rifugio nei difficili anni della mia adolescenza. E poi ancora, Sara: ringrazio il mio ex che mi ha lasciato nel momento in cui meno avrebbe dovuto, pensavo a quel tempo, invece mi ha dato la possibilità di crescere e maturare. 800 24 00 24 per chiamare in diretta. Non avete bisogno di avere finito una tesi, non avete bisogno di avere scritto un libro per ringraziare delle persone, non avete neanche bisogno di aver vinto un Oscar. Avete solo bisogno di alzare il telefono, fare l'800 24 00 24 e dire: ringrazio, che ne so, non è che ve lo dico io, decidete voi chi dovete ringraziare. Ecco, possibilmente eviterei alle telefonate di oggi di ringraziare tipo me stesso per quello che ho fatto. Ecco, no, cioè se vuoi ringraziarti ti ringrazi, ma non in diretta. Grazie ai genitori, eccetera eccetera, anche, esatto, come dice Carmelo Lauricella, ti fai una bella pacca sulla spalla e sei a posto. Grazie ai genitori, alla mamma, no, andiamo a ringraziare persone che dobbiamo ringraziare, che magari semplicemente non ci è mai venuto in mente di fare. 800 24 00 24, oppure con un sms 349 238 6666. La storia di oggi quindi è la storia di Lorenzo, che parla dei ringraziamenti, ma soprattutto parla di lui e del luogo in cui si trova. Negli ultimi mesi ho pensato molte volte al momento in cui avrei iniziato a scrivere queste righe. Mi immaginavo seduto davanti allo schermo, a tarda ora, esausto, dopo una sigaretta celebrativa fumata ascoltando una canzone che mi piace. E così è stato, in effetti. Un paio di mesi fa, a dicembre, mi sedetti al tavolo della cucina di casa mia e dissi ai miei genitori che non sapevo se ce l'avrei fatta a finire questa tesi. Ero sincero. Non riuscivo davvero a capire se ciò che stavo scrivendo sarebbe arrivato da qualche parte. Mia madre, come sempre, fu più accomodante, mio padre molto meno. Alla fine li convinsi a pagare la prima rata di tasse universitarie, ma entrambi dissero che lo si faceva solo per farmi stare più tranquillo e che comunque dovevo mettercela tutta. E a quanto pare ce l'ho messa. Ma sarebbe stato impossibile se non li avessi affrontati quella sera, con tutte le mie paure e le mie inconcludenze, e non mi fossi trovato davanti due persone che, nonostante non capissero davvero perché io fossi così insicuro su quel mio futuro, avevano ancora fiducia di me. I miei genitori sono delle bellissime persone, e se questa tesi fosse un libro, la vorrei dedicare a mio padre. So che avrebbe voluto che studiassi medicina, legge o ingegneria. Lui voleva uno di quei figli pratici, che si sanno arrangiare da soli, e presto. Uno che somigliasse un po' a lui, insomma. Però alla fine non credo sia rimasto deluso del figlio umanista e indeciso che si è trovato. So che è contento che abbia speso tanti soldi in viaggi, piuttosto che in vestiti firmati. Ho studiato relazioni internazionali all'Università di Venezia. Dunque, io in realtà avevo... Da piccolo, cioè fino a 22 anni, volevo fare lo scrittore. Dopodiché mi sono buttato invece sul viaggio, sul viaggiare. La cosa più ovvia era andare a studiare relazioni internazionali. Ho vissuto un anno a Venezia, poi in realtà appena ho potuto sono partito con l'Erasmus, sono andato a Barcellona e mi sono fermato per 2 anni. Questa tesi è stata scritta in posti e luoghi diversi. Pochissimo a Barcellona, un po' a Milano, spesso in treno e moltissimo ad Arzignano. A volte in biblioteca, ma per la maggior parte del tempo, soprattutto negli ultimi 2 decisivi mesi, nello studiolo di casa mia. Le ore tra mezzanotte e le 4 sono state sempre le più produttive. È una tesi decente, scritta a tempo di record, piena di quelle piccole chicche che interessano a pochi, ma mi fanno sentire intelligente. Probabilmente però nessuno la leggerà mai interamente. A parte la mia relatrice, alla quale vanno moltissimi ringraziamenti, per l'onestà con cui mi ha accolto tra i suoi laureandi e la velocità con cui ha riletto i capitoli, compresi quelli più farraginosi. L'ho finita 3 giorni prima di discuterla, questa tesi, e sì, credo che ci sia dell'illegalità in tutto questo. Quando scrissi i ringraziamenti nella mia tesi di triennale, mio nipote stava per crescere. Adesso ha 4 anni e molte cose sono cambiate. No, anzi, non è vero. Da quando iniziai ad andare all'università, 8 anni fa, so di non aver imparato quasi niente. Tante nozioni e poco più. Ho vissuto per un po' a Pavia, a Buenos Aires, a Venezia, a Barcellona e a Milano. E l'unica cosa utile che mi sembra di aver fatto in questi anni è stato trovare degli amici. I miei amici sono pochi e sono sparsi per l'Italia e l'Europa, ma sono tutti delle persone fantastiche. Sono davvero la cosa migliore che mi sia capitata in 26 anni di vita e vorrei provare a ringraziarli tutti, perlomeno quelli che c'entrano con questa tesi. E ancora una volta decisiva per la mia vita è stata Elena. Elena che, ospitandomi per ben 2 mesi a Milano assieme al buon Marco, mi ha insegnato come si diventa adulti e una maniera semplice di essere felici. Grazie a Diana, ironia della sorte, la cosa migliore che mi poteva capitare a Venezia era una palermitana. Esilarantemente pazza, molto più uomo di quanto io sarò mai. Capisce di me cose che solo io capisco di lei. Grazie ad Alessandro e Davide, i miei unici fari ogni volta che ricado nel fondo di quello stagno spirituale che è Arzignano. Mi chiedo se riuscirò mai a dirgli che gli voglio bene. Grazie a Roberto, in assoluto il miglior coinquilino e il miglior compagno di viaggio che abbia mai avuto. Grazie ad Alvaro, perché i migliori amici rimangono per tutta la vita e di lui so che ci sarà sempre. Grazie a Stefano, che con scambi europei mi ha cambiato la vita e mi ha permesso di scrivere questa tesi. Lui è il miglior presidente che io abbia mai avuto. Grazie a Francesco e a Marcia perché il loro modo di non programmare alcuno spostamento nel dettaglio, di lasciare all'ovvietà i ritardi, di cambiare idea come se stessero scrivendo un saggio su come perdere tempo senza sprecare nemmeno un minuto, beh, quel modo è un metodo ed è anche mio. Grazie a Julien, l'amico che chiunque vorrebbe avere. Fabio, che non smetterò mai di ringraziare per avermi fatto cittadino onorario di Ostiuni, assieme a Marcello, che per primo mi parlò della città che ora è il mio totem. Grazie a Giulia, che ha visto il peggior Lorenzo però è rimasta. A Elisa, che anche se ci vediamo due volte l'anno, io ho la certezza che ore tarde lei, su Skype, ci sarà. Grazie ad Erika, perché non credo che mi innamorerò mai di una sconosciuta a quella maniera, per caso, su un treno da Milano a Torino. Grazie a Massimo, un grande compagno di esami e l'ultima persona ad avermi riportato a casa di peso dopo una sbronza. Grazie ad Emanuele e ad Elena, più mi ospitano e più sono e restano per me dei veri amici. Grazie a Francesca, chissà quale sarà il prossimo casino in cui finirà, ma continuo a comprare Il Piccolo Principe in giro solo per lei. Grazie a Michael perché mi ha fatto scoprire Berlino, Roberto, con cui giorno andrò in India a fare yoga, e a Riccardo, con cui un giorno aprirò un ristorante in Cina. L'amicizia è il cemento della mia personalità, cioè è una cosa che da l'insieme di persone che mi sono amiche mi danno, servono a definire la mia identità, a definire chi sono. Senza di loro non sono niente. Ringraziamenti affettuosi un po' a caso vanno a Inda per avermi tenuto il posto numerose volte in biblioteca e a Ese Boludo De Luis, e poi i ragazzi dello zoo di via Savonarola per il soprannome Macete. Grazie ai Mishima, perché voi non lo sapete ma il rock catalano spacca. Grazie agli Hold Your Horses, il miglior video indie degli ultimi anni, i Bright Eyes e gli Exotago. Grazie a Jonathan Safranfoer, Julio Cortázar, Osvaldo Soriano, Tibor Fischer, Benedict Anderson, Barcellona Tutta e Roberto Goinece. Mi è stato chiesto di ringraziare anche Melfo e lo faccio. Che la vita a Londra gli sia lieve. Infine, questa tesi è stata scritta senza alcun aiuto da parte dell'Università di Venezia, alla quale i miei genitori hanno pur pagato 3 anni di tasse. Fondamentali perché potessi trovare un filo alla mia ricerca e dare una struttura al mio lavoro sono state le tesi di Elisa Bruschi, che purtroppo non sono mai riuscito a contattare, e Valentina Pasinato, con cui per casualità, ma sarà poi davvero, ho avuto il piacere di prendere un caffè. Dovessi essermi scordato qualcosa o qualcuno, beh, sarebbe assolutamente da me. Arzignano, 27 febbraio 2012, ore tarde. Io l'ho già fatto ieri pubblicamente sul profilo Facebook del programma, però io devo ringraziare comunque Tiziano Bonini, perché tutte le canzoni che mandiamo in onda non le conoscevo, cioè ne conoscevo tipo un centesimo ne conoscevo, probabilmente, no, ne conoscevo molte di meno. Lo ringrazio anche a nome di tutti quelli che lo hanno fatto sul profilo Facebook del programma, e vi ricordo che tutti i brani sono sul profilo, sulla pagina del programma di Radio 24, quindi andate su www.radio24.it, la pagina di Voi Siete Qui, e trovate non solo i nomi dei brani e gli autori, ma anche proprio il link per andare ad ascoltarvele su YouTube. Lì trovate anche la foto che vi racconto in onda, trovate un pezzo del programma, basta. Altro? Sì, Twitter, Facebook. Chi va là? 800240024 349-238-6666. Se avete qualcuno da ringraziare e volete farlo come ha fatto Lorenzo, potete chiamarci all'800240024. Vorrei ringraziare la mia prof di italiano delle medie, mi scrive Luca. L'ho fatta impazzire perché era una peste, ma ha segnato il mio modo di essere. Vorrei poterla incontrare per ringraziarla di persona. Poi Beppe scrive: grazie a Luna Rossa perché mi ha inculcato la passione per la vela. E ancora grazie a Fritz Lieber, si leggerà così? Fritz o Lieber, per aver lasciato un'impronta indelebile nella letteratura di fantascienza, fantasy, horror e nella mia vita. 800240024. Tutto nasce però da quello che non doveva essere un racconto e poi lo è diventato. E sono i ringraziamenti finali della tesi di Lorenzo Albiero. Pronto Lorenzo? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Ma abbastanza bene, un po' incasinato, ma bene. Sei incasinato perché sei già di nuovo in partenza, giusto Lorenzo? Sì, sono disperatamente alla ricerca di una stanza a Bruxelles. anzi, se gli ascoltatori hanno una stanza a Bruxelles, volentieri. No, non so quanti ascoltatori proprio adesso abbiano una stanza libera, però magari, però sai, ma mio cugino forse ce l'ha. Però mi spieghi, esatto, per piacere, Lorenzo, perché non credo di essere stato l'unico a non capire che cosa vai a fare a Bruxelles. Vado a fare uno stage di 3 mesi in una NGO internazionale che si occupa di, non so, di stampa, di magazine a livello europeo. Ok, se vuoi te la spiego più in dettaglio. No, guarda, va bene così, va bene così. Che cosa ti danno? Ti danno tipo il vitto, l'alloggio, ti pagano le spese? Mi pagano il viaggio, mi danno l'alloggio e un minimo di mancia mensile, chiamiamola così. Una mancia mensile non è male. Dimmi cosa avrebbe voluto che tu facessi tuo padre? Mio padre, mi ricordo quando finì le superiori, lui voleva che facessi medicina. Ho studiato biologia alle superiori, quindi lui ha convinto che avrei fatto il medico. O al massimo ha sempre detto, potevi fare l'avvocato, così mi difendevi quando l'azienda ha dei problemi. Perché il tuo babbo ha un'azienda, una piccola azienda come quelle, come moltissime ce n'è nella zona in cui sei tu, giusto? Perché Arzignano è in provincia di Vicenza. No, te lo domando perché è veramente troppo facile per uno che ascolta questa storia dire beh, bella vita che si è fatto Lorenzo, perché da quello che racconti, da quello che dici nei tuoi ringraziamenti, che noi abbiamo preso a racconto perché veramente sembrava un punto rosso sulla tua mappa, no? Cioè a 26 anni scrivo una tesi e prima di aprire la porta e andare altrove mi guardo indietro e vedo cosa è successo, no? Questa è la cosa che ci è piaciuta di più. Come rispondi ad un'affermazione come questa, se mai qualcuno te la dovesse fare, e forse qualcuno te l'ha fatta, no? Bella vita, no? Sì, sì, me la fanno sempre i miei amici che sono rimasti fermi al paese. Come rispondo? Ho avuto sicuramente molta fortuna e ci ho messo un po' di impegno. Io l'ho sempre saputo abbastanza chiaramente fin da quando ero giovane che sarei voluto andare via dal paese, viaggiare il più possibile. E ci ho provato in tutti i modi. Poi ho avuto quando cominci a viaggiare ti fai un sacco di amici in giro per il mondo che rendono i tuoi viaggi molto più economici, mettiamola così. Ah, ok. Poi tante volte quando vado in giro magari non pago l'alloggio, è già questo. No, perché c'è veramente Ryanair aiuta il rischio, no, di cadere. Sì, ho capito, ma come fai? Cosa vi? Ma vado in giro, vedo della gente, faccio delle cose. Sì, ma queste sigarette, ma me le hanno prestate. Sì, ma gli abiti, dove li prendi gli abiti? Ma guarda, c'ho degli amici che hanno appena dismesso una casa. Cioè, è veramente brevissimo il passaggio, no? Quindi ci tenevo a capire che un po'. No, infatti non riesco mai a spiegare, anzi non sono ancora riuscito a spiegare a mia madre di cosa mi occupo, che tipo di lavoro faccio in realtà. Non credo che questa telefonata in diretta l'abbia aiutata, però esatto. Quantomeno sa che parti. Quando è che parti, Lorenzo? Parto mercoledì. Ok. Mercoledì mattina da Venezia. La cosa divertente dei ringraziamenti è che quando me li hai mandati io ti ho detto guarda, vorrei farci un racconto, tu mi hai scritto. La cosa assurda è che questi ringraziamenti in realtà nella tesi non sono stati messi. Sì, cioè, ne sono stati messi solo la metà, diciamo, l'ultima pagina è stata tolta. Quella che tu adesso hai letto dicendo che l'Università di Venezia non mi ha, come ho scritto io. Che non ti ha aiutato. Nonostante i tuoi abbiano pagato le tasse universitarie. Esatto, e la redattrice mi chiamò la sera prima di discutere la tesi, molto arrabbiata perché aveva letto i ringraziamenti, mi disse tu sei pazzo, se qualcuno della commissione legge questi ringraziamenti e vedi che hai offeso l'Università di Venezia, non ti fanno più laureare, c'è il rischio che ti denunci, no, devi toglierla. E io ho detto, come faccio a toglierla? È stampata, è rilegata. E ho detto, strappala. Ok, quindi sono messo lì la sera prima e ho strappato. Quindi la copia che hai consegnato è senza ringraziamenti. Lorenzo, io comunque ti ringrazio, a proposito di ringraziamenti, per averci mandato questa, che per noi continua a essere una storia, e in bocca al lupo per la tua e per il tuo viaggio e per il tuo lavoro. Crepi il lupo. Ciao. Grazie a te e a presto. Ciao. Grazie Lorenzo, ciao. La foto che ci ha mandato Lorenzo e che trovate sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui, non si capisce se è una di quelle foto scattate per caso oppure in posa. Ci piace immaginare che sia per caso. Lui si trova, direi, in un museo ed è di fronte a un quadro in cui che è il ritratto di un nobile, probabilmente di qualche secolo fa. No, allora, Tiziano, prima ho detto che era Cecco Beppe, ma non sono sicuro che sia Cecco Beppe. Però facciamo finta che sia Cecco Beppe. Ok, andate a vedere. Sì, c'ha la fascia prussiana Adesso diciamo cose senza saperle: la fascia bianca e rossa e la fascia prussiana. Che vergogna. La cosa divertente comunque è che Lorenzo è identico al quadro che sta alle sue spalle. Ma identico proprio. Al di là dei baffi, la faccia è la stessa. Se qualcuno sa se lui è Cecco Beppe, che si dice a Vienna? Ce lo dica immediatamente andando sul sito, alla pagina di Voi Siete Qui. 349-238-6666 800-24-0024 per chiamare in diretta. È la prima volta che nella stagione nuova che prendiamo le telefonate. E anche la quinta puntata, certo. Lo dicevo come se fosse una grande novità. Invece è solo il primo venerdì della prima settimana. Credo, c'è chiaramente la polemica nei confronti di Lorenzo. Credo che il padre avrebbe voluto che lavorasse perché questo non ne ha voglia. E poi Marco da Vicenza è tornato. Marco, era da un po' che non ci scrivevi, cioè da quando avevamo cominciato, e per fortuna sei qua. Abito a 5 km da questo ragazzo, è fortunato e rompe, domani lo assumo e vediamo. Il finale non è male, domani lo assumo e vediamo. Marco, non ho ancora capito cosa fa esattamente a Vicenza, eh? Perché non ce lo scrivi? 349-238-6666. Ringrazio Vasco Mina Battisti per avermi dato la colonna sonora della mia vita. Grazie a Rafa Nadal perché mi ha insegnato a non mollare mai. Oddio, devo dire che ultimamente Rafa sta mollando un po', se è il terzo torneo che salta. Però andiamo, abbiamo due telefonate, non una, addirittura due telefonate da Napoli per ringraziare qualcuno. Andiamo da Oriana prima. Pronto, Oriana? Pronto, ciao. Ciao, come stai, Oriana? Tutto bene. Dove sei? A Napoli in questo momento, a no. Baccoli. Quello lo immagino. A Baccoli, che è un paesino... È vicino a Pozzuoli. Vicino a Pozzuoli. E cosa fai nella vita, Oriana? Io lavoro, sono impiegata. Scusa, ti ho perso. Ho detto sono impiegata. Sei impiegata, perfetto. Ma sì, tu non hai un accento napoletano, però. No, sono di Milano. E cosa fai a Baccoli? Mi sono trasferita per lavoro, mi sono trasferita seguendo mio marito. Ah, ok, per amore, quindi. No, eravamo già sposati. Ok, eravamo già sposati. Basta farmi i fatti tuoi. Chi è che vuoi ringraziare e perché, Oriana? Io voglio ringraziare la commissione per gli esami di maturità del 92. Di che? Ah, ok, del 92. Del 92, quando si prendevano ancora i 60-60esimi, sì, che aveva dato a me e alla mia migliore amica dei risultati veramente abominevoli, assurdi. Io avevo preso 41 e lei aveva preso 38, mi pare. 41-60esimi e 38-60esimi. Che è tipo 6,5. Giusto. Ma era una cosa, poi noi eravamo due persone che avevamo dei buoni risultati a scuola. Eravamo ok, quindi vi è rimasto, ti è rimasto qua, Oriana, lo sento ancora. Ci è rimasto, ma poi dopo parlando con lei, questa cosa ci ha spronato poi tutte e due ad andare all'università. Perché okay, io avevo già delle richieste di lavoro, lei pure, e abbiamo fatto tutte e due l'università. Lei addirittura adesso ha la cattedra a Torino, all'Università di Torino. E quindi quando ne parliamo diciamo sempre: se non avessimo preso questi voti orribili, forse non saremmo finiti a fare l'università. C'è speranza perché ha preso 38 ancora. Però adesso non è più 38, adesso è centesimi, giusto? Adesso sì, quindi non, sarà ormai 60, non so neanche più come funziona. Sarà 64 più o meno, 65. Oriana, sì, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao. Ciao, buona giornata. 349-238-6666. Volevo ringraziare il mio datore di lavoro che mi ha dato la possibilità di crescere. Dice qualcosa di più. Ringrazio Alberto Fortis per la magia della sua musica. Ringrazio il film Into the Wild per avermi fatto capire che la felicità è reale solo se condivisa. Grazie a Sergio che dopo la riunione, questo è il mio preferito, grazie a Sergio che dopo la riunione di Milano mi ha sistemato il PC. 800240024 a Napoli ancora. Anna, pronto? Pronto, salve. Ciao Anna. Io sono una figlia di un altro ex canguro, che purtroppo anche lui non c'è più, cioè un ex prigioniero. E volevo ringraziare quel ragazzo che ieri sera ha scritto quel bel racconto sui prigionieri d'Australia. Ah, ok, scusa Anna, parliamo della puntata di ieri. Per cui parliamo del protagonista della puntata di ieri, che era stato in Australia, aveva raccontato la storia di questi militari italiani, lo dico per chi non l'avesse sentita, che erano stati fatti prigionieri, avevano passato dei periodi anche durati anni, tra il 43 e il 46, In Australia. Esatto. E il tuo babbo era stato in Australia? Mio padre, sì, si chiamava Salvatore Giacona, è stato 12 anni in prigionia in Australia e spesso mi raccontava che il giorno all'altro saremmo scappati un'altra volta in Australia, perché mi raccontava di questi boschi. Lui scelse la facoltà di fare lavorare nei boschi e quindi lo mandavano a spaccare la legna, e mi raccontava di questi boschi bellissimi fatti di acace di tutti i colori, in cui ce n'era uno in particolare rossa, per cui all'alba erano degli spettacoli straordinari. straordinari. Senti, e quando è che avevi sentito l'ultima volta questa storia prima di ieri? Da lui? No, mio padre purtroppo non c'è più, è finito nel 2000. Lo immaginavo, quindi insomma era da un po' che non sentivi questa storia e ti è tornata alla mente ieri. Non sapevo proprio che ci fosse qualcuno che avesse fatto una ricerca, anzi questo mi chiedevo, se questo ragazzo ha scritto un libro, se c'è il titolo io me lo vado a comprare. Guarda, te lo facciamo sapere, gli scriviamo e lo diciamo in onda la settimana prossima, Anna. Grazie ancora. Sei stato gentilissimo. Ma di cosa? Anche tu. Ciao, buona giornata. Al volo, l'ultima telefonata, Carlotta da Ferrara. Pronto, Carlotta? Pronto. Ciao, Carlotta. Ciao, Matteo. Quanti anni hai, Carlotta? Ne hai 12? 13. Che cosa studi? E vengo da Ferrara, appunto. E vieni da Ferrara. Bene, quindi allora, con la presentazione siamo a posto. Cosa studi? Okay. Le medie? Sì, esatto. Devo andare in prima superiore, però, perché ho fatto la primina. Ah, sei una di quelle che parte prima? Sì. Sei avanti, occhio però che troppo avanti poi dopo un po' ti doppi, fai il giro, eh? Senti, chi vuoi ringraziare, Carlotta? Io volevo ringraziare i miei genitori, perché oggi mentre ti ascoltavo le tue parole, mi sono resa conto che i miei genitori sono, diciamo, la cosa più importante che ho nella mia vita, assieme a mia sorella, perché loro mi hanno sempre dato tutto quello di cui avevo bisogno e anche oltre alle mie aspettative. E mi sono resa conto che senza di loro non sarei dove sono adesso e non potrei arrivare dove spero di arrivare. Carlotta, ti stanno ascoltando? Loro ti stanno ascoltando oppure sei da sola in casa? Io sono con mia sorella in casa, però spero che loro mi stiano ascoltando. Vabbè, guarda Carlotta, ho permesso di dire questa roba solo a te che hai 13 anni e ti ringrazio per averlo fatto. Buona giornata. Grazie. Ciao Carlotta. Matteo. A proposito di ringraziamenti, questa è una cosa che volevo dire a tutti i costi oggi, anche se c'è pochissimo tempo. Esattamente 7 anni fa moriva Sergio Endrigo. Sergio Endrigo è un cantautore italiano che ha avuto probabilmente meno riconoscimenti di quanti meritava. E quindi vorrei mandare un pezzettino di una canzone. Credo ci siano pochissime canzoni, o pochissimi modi in genere, che gli uomini riescano a trovare per dire a una donna, in sostanza, in poche parole, per piacere, non prendermi per il culo. Ecco, quindi un grazie a Sergio Endrigo da parte mia. E per concludere la puntata vi diamo la parola chiave di oggi per comporre il dizionario di Voi Siete Qui. La parola chiave ovviamente è grazie. Voce che esprime all'occasione la gratitudine o un cortese rifiuto. Tante grazie o un biscotto? Grazie, ho appena pranzato. Ironicamente, per sottolineare la ovvietà di un'affermazione o di una constatazione altrui. Si è comprato la casa al mare? Grazie, con quell'eredità. Etimo da grazia, dal latino gratias agere, cioè ringraziare. Data di apparizione di questa parola, 1801. Grazie a Carmelo Lauricella ancora, a Tiziano Bonini e a Margherita Hina. La storia di oggi era la storia di Lorenzo e anche lui, finalmente, è un punto rosso sulla mappa. Salve, sono Livia, vi anticipo la storia che vi verrà letta lunedì. Parla d'amore, di un dono d'amore, e c'è di mezzo anche un cane. Per il resto ascoltatela. Ciao.